trovato la forza per combattere, portami con te mentre avanziamo insieme nel buio della notte, con le mani tremanti cerco di afferrare ciò che mi sfugge, ma nonostante tutto resto anche quando il mondo mi schiaccia come un gigante che non perdona, sento che il mio cuore può cambiare, anche solo per te posso resistere come ci insegna Tanjiro, posso cambiare solo me stesso. E in questo cammino coperto di spine sento il vento che urla ma io avanzo, le nostre mani si stringono forte e il mondo cambia sotto il nostro passo, con sacrificio in questo destino riusciremo a brillare insieme finalmente, come ci insegna Eren, ciò che abbiamo perso non è vano, ci siamo alzati come uno solo, ogni battaglia ci ha insegnato il valore del dolore, nel profondo della notte la tristezza diventa forza perché ogni passo che facciamo ci avvicina a qualcosa di più grande, abbiamo perso molto ma non siamo più soli, lottiamo per gli altri con il cuore che non si arrende, come ci insegna Tanjiro, combattere per proteggere chi amiamo è la nostra forza, e in questo cammino coperto di spine sento il vento che urla, si stringono forte e il mondo cambia sotto il nostro passo, con sacrificio in questo destino riusciremo a brillare insieme finalmente, come ci insegna Eren, ciò che abbiamo perso non è vano, voglio cambiare il mondo sfrecciando nel vento senza paura, con coraggio e frammenti di speranza tendere le mani verso un domani incerto, dove ogni sogno che abbiamo possa brillare anche quando tutto sembra perduto, il nostro cammino è illuminato da ciò che ci unisce, come ci insegna Inuyasha, combatteremo per ciò che amiamo, e in questo cammino coperto di spine sento il vento che urla ma io avanzo, le nostre mani si stringono forte e il mondo cambia sotto il nostro passo, con sacrificio in questo destino riusciremo a brillare insieme finalmente, come ci insegna Eren, ciò che abbiamo perso non è vano, a te Ian, che sei il mio cuore e il mio coraggio, ogni passo che facciamo insieme è il nostro destino, con te al mio fianco nessuna battaglia sarà troppo dura.